a Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Nuovo appuntamento con l'UPA, l'Unione Provinciale Artigiani, a Regola d'Arte con Francesco Galante. Anche oggi parliamo di cose di assoluto interesse e cominceremo proprio segnalando un evento dedicato al mestiere dell'autotrasportatore. Con noi oggi al telefono abbiamo Michele Varotto, presidente del sistema di categoria trasporti dell'UPA. Benvenuto. Sì, buongiorno. Oggi dobbiamo segnalare due cose importanti che riguardano l'autotrasportatore e cominciamo da un convegno che ci sarà, a cui ogni autotrasportatore probabilmente dovrebbe partecipare. Il convegno dedicato alla categoria il prossimo 4 febbraio all'Hotel Crown Plaza di Padova. Sì, certo. L'appuntamento è sabato 4 febbraio, lo ricordiamo, a partire dalle 14.30 all'Hotel Crown Plaza di Padova, si trova in via Po 197, così abbiamo già dato qualche dettaglio. Che cosa farete in questo pomeriggio del 4 febbraio, di sabato prossimo? Allora, è un evento che abbiamo organizzato con una serie di convegni che abbiamo fatto anche l'anno scorso, che riguarda le opportunità e le regole dell'autotrasporto. Siccome noi siamo una categoria che è normata all'inverosimile, quindi portiamo gli associati a queste riunioni dove ci sono degli specialisti che danno dei suggerimenti o danno delle indicazioni in modo da non essere, diciamo, perseguibili? Che non siano perseguibili economicamente, ecco, che non vengono multe o controlli e tutto il resto. E su queste normative ci sono delle piccole novità che riguardano la legge bilancio del 2016, quindi noi volevamo mostrare le novità. Ho capito. Tipo il nuovo corso di 8 ore per i dipendenti sul tachigrafo, che non è obbligatorio ma è consigliabile, così ripara da eventuali controlli dell'ispettorato del lavoro sulla ditta. Ecco, perché essere un autotrasportatore oggi, come dicevamo, non è facile. Uno penserebbe, ma sì, devo solo guidare un camion, ma evidentemente ci sono tante normative, come le regole che uno non può guidare più di 8 ore e via dicendo, no? Ma ce ne sono tantissime. Ormai non so più se ho un autista o un impiegato nel camion, perché ci sono così tante regole, così tante norme, così tante carte da portare sul camion, che è diventata una cosa veramente difficile. Oltretutto sono anche tante norme che si sommano anche sulla formazione che ci danno. Spero che in futuro, che ci stiamo lavorando, che non si trovino delle formazioni che si sovraccaricano al verosimile, oppure che vengono ripetute più volte la stessa cosa. Chi fa internazionale, col discorso del cabotaggio, dell'estero, del costo minimo dei dipendenti, della dichiarazione delle buste paga e di tutti questi stranieri che arrivano, diventano difficile per noi arginare gli stranieri e diventa difficile per noi lavorare quando andiamo negli altri paesi. Ecco. A questo punto ci considerano come autisti del paese dell'est, dove il livello salariale è il più costoso del mondo, ma non è detto che i nostri autisti prendano adeguatamente. Ecco, perché c'è evidentemente una disparità tra un autotrasportatore italiano e uno di un altro paese? Sì, sono venuto fuori anche ultimamente, hanno fatto in Francia una specie di controllo e noi siamo secondi in Europa come costo per dipendente, dove la Bulgaria o la Polonia e altri paesi hanno circa un 40-50% di costi in meno. E da cosa sono dovuti? Dalla burocrazia questi costi? O... No, sono dovuti che i paesi dell'est, nel momento che sono entrati in Europa, hanno una fiscalità e hanno una salarietà inferiore alla nostra da tanto tempo, e usufruiscono, e anche ditte italiane usufruiscono di questo per lavorare nel nostro territorio. Okay. Noi, non potendo per legge, per regole andare alla pari, non c'è una parità europea su queste cose, e allora dobbiamo pagare noi. Ho capito, quindi sarà un incontro sicuramente interessantissimo quello che ci sarà al Crown Plaza Hotel di Padova sabato 4 febbraio alle 14.30. Ricordo che la partecipazione al convegno è gratuita, ma è necessario segnalare l'interesse per partecipare proprio all'ufficio dell'UPA, l'Unione Provinciale Artigiani, a Diego Boscolo. La mail è diego.boscolo@upa.padova.it, oppure chiamate direttamente agli uffici dell'UPA. Certo, se no basta arrivare direttamente all'hotel, non c'è nessun problema. Lasciando i dati, insomma, di chi all'ingresso. Va bene, quindi teniamolo a mente, sabato 4 febbraio, il pomeriggio ci teniamo liberi. Ci fermiamo per una canzone e poi torniamo ancora insieme. Non è facile pensare di andar via e portarsi dietro la malinconia. Non è facile partire e poi morire per rinascere in un'altra situazione, un mondo migliore. Non è facile pensare di cambiare le abitudini di tutta una stagione, di una vita che è passata come un lampo e che fila dritta verso la stazione di un mondo migliore, del mondo migliore. A Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto. Oggi a Regola d'Arte con Francesco Galante, ma soprattutto con Michele Varotto, presidente del sistema di categoria trasporti dell'UPA Padova, che abbiamo al telefono. Torniamo a parlare ancora di autotrasporti, perché c'è un'altra cosa che vogliamo raccontare. C'è l'aggiornamento sui pagamenti delle quote albo, e qui chiedo a Michele Varotto di essere un po' preciso, perché magari questa cosa sfugge. Che cos'è? Il pagamento della quota albo è un pagamento che viene fatto al comitato centrale, che una volta si chiamava albo trasportatori, adesso si chiama comitato centrale. È una quota che ogni trasportatore paga per l'attività e per ogni mezzo, dove viene mandato a Roma, e qui a Roma dovrebbe tutelare il trasporto italiano. È formato da dirigenti ministeriali e dirigenti dell'autotrasporto. Cos'è successo? Che con la nuova normativa delle leggi di stabilità, con il nuovo software e con quello che ci va dietro, il pagamento, una volta anche le associazioni riuscivano a farlo per gli associati, adesso invece bisogna registrarsi, pagare, e sono venuti fuori dei problemi che non si riesce a pagare o registrarsi. Quindi il Ministero, il Comitato Centrale, ha dato una deroga fino al 28 febbraio. Comunque, anche se si aspetta, non si riesce, non si è sanzionati e c'è il tempo adeguato. Ho capito, quindi mi sembra di capire che se prima questo albo degli autotrasporti si poteva pagare proprio presso l'UPA, adesso deve essere ogni autotrasportatore a versare la propria quota? Esatto, infatti noi come Confartigianato Padova e anche come Stato regionale Veneto abbiamo fatto al nostro livello nazionale, di cui sono anche vicepresidente, abbiamo fatto al comitato di tornare che, come prima, che anche le associazioni possono pagare questa quota, anche perché l'autista o il padroncino che lavora monoveicolare non ha tempo di seguire questa balzella. L'associazione era fatta apposta per seguire questo piccolo adempimento che c'era, e allora adesso siamo andati sul comitato di vedere di tornare come prima. Ho capito. Sarà un po' difficile, ma vediamo se ce la facciamo. È sempre il solito discorso che, come dicevamo precedentemente, un autotrasportatore deve guidare il camion, ma deve tenere a mente tutta una serie di balzelli burocratici e tassette e cose da fare che ti tolgono da lì. È una delle cose che bisogna cominciare a ridurre, perché la burocrazia, esatto, è un costo, è un rallentamento e non si è competitivi. Va bene la sicurezza, va bene tutte le regole per le guide, per i riposi, tutto quanto, ma troppa burocrazia blocca comunque la competitività del paese. In altri paesi non hanno questa burocrazia, e per noi è molto importante. Già siamo gravati di costi, gasolio, accise, costi di lavoro e tutte queste formazioni, e non siamo in grado di lavorare. Basta però fare le cose giuste, fatte bene, e così si va avanti. Ecco, ricordiamo che proprio grazie, insomma, alla richiesta della Confartigianato Trasporti c'è stato questo slittamento dell'iscrizione all'albo autotrasporto fino al 28 febbraio 2017, quindi c'è ancora un mese per riuscire ad adempiere a questa pratica che ogni trasportatore evidentemente dovrà assolvere. Per ulteriori informazioni diciamo sempre che c'è disponibile l'UPA, e quindi chiedete all'Unione Provinciale Artigiani di Padova, i numeri li trovate nel sito upa.padova.it. Beh, grazie quindi a Michele Varotto per averci dato queste segnalazioni, alla prossima volta. E ci vediamo sabato pomeriggio della prossima settimana. Va bene, grazie a voi e buona giornata. Per chiudere parliamo di un servizio dell'UPA Padova per la gestione paghe e amministrazione del personale. È un servizio personalizzato che mette al centro le specifiche esigenze di ogni impresa, dalla dimensione dell'impresa alla tipologia dell'attività. UPA offre servizi di gestione delle risorse umane, paghe e amministrazione del personale, grazie alla competenza di numerosi esperti del settore e alle più moderne tecniche informatiche. L'ufficio garantisce un puntuale aggiornamento alle imprese e agli operatori paghe di UPA Servizi S.p.A. sulle variazioni che intervengono nel mercato del lavoro. Inoltre, garantisce un puntuale aggiornamento sulle nuove misure rivolte alle imprese per incentivare l'occupazione presso la propria azienda, previste sia dalla normativa nazionale che da quella regionale. Per saperne di più basta collegarsi al sito www.upa.padova.it e andare nell'area dedicata ai servizi, oppure chiamare lo 049 8206 311. E con questa notizia termina il nostro appuntamento di A Regola d'Arte, che torna come sempre la settimana prossima, stessa ora e stesse frequenze. Grazie a tutti e buon weekend da Francesco Galante. Avete ascoltato A Regola d'Arte, rubrica a cura dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova e Blu Radio Veneto.